Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Ma dove sei, Oscar? Non ti come vedo. Dove sono? Ma sono a Roma, dove fa più fresco che a Milano. Ma ecco. Del resto me la prendo comoda, perché iniziamo di nuovo a 8:24. Tra un po' sforano su tutto, prima di noi. 3 minuti, va bene, dai. Siamo qui, qua, comunque qui, sai perché fa fresco? Perché? Fa più fresco perché qui sono riusciti a risolvere un dramma molto lungo, tu sai, molto importante per la città, cioè accompagnare Totti alla fine verso i 50 anni fuori dal campo. Però invece a Milano siete, dopo tanta superiorità milanese del nord verso la vicenda di Totti, vi siete rivelati acqua alle ginocchia, latte alle ginocchia, perché questa cosa di Donnarumma rivela che siamo proprio veramente dei baluba, ma altro che nord, ma dei baluba. Qual è la vicenda? La vicenda che si ha fatto prendere il fratello, che prende 6 milioni, ma che no, non fa il diploma. Ma il complesso psicologico disegnato da uno che scappa dall'esame, cioè i familiari non gli hanno detto: Gigio, benissimo, siamo felici, ti stiamo spremendo come un limone, sei una miniera d'oro, eccetera. Però ci sono delle cose nella vita, il tuo pezzo di carta è giusto, no? È giusto. Ma l'aereo ha preferito l'aereo privato, andare a vedere David Guetta a Ibiza. Io non giudico, io dico semplicemente la reazione romana sono dei risolini, devo dire. Hai visto, tanto superiori che noi non sapevamo gestire la vicenda di Totti. Diglielo a quello lì che c'è di fronte, Valerio, diglielo lui, esatto, e il suo è lui, esattamente, hai colto il punto. Tecnico di Roma. Dice, ma neanche un ragazzino no, sanno gestire a Milano. Più o meno questa è la sintesi. Ecco, va bene. Comunque stanno tutti dicendo che non vi resta a Milano che pregare. Oggi è Sant'Antonio Maria Zaccaria. Sant'Antonio Maria Zaccaria è un lombardo, un santo lombardo del 500, che cappellano di una nobile veneta che poi si trapianta a Milano. A Milano però si dedica a un grande apostolato sociale. È lui che fonda i Barnabiti e lui che fonda la prima congregazione di suore non monache di clausura, le Angeliche di San Paolo, che infatti susciterà un grave scandalo. Il Concilio di Trento dirà no, le monache devono stare in clausura. E invece fonda anche poi i Maritati di San Paolo, cioè dei laici che fanno apostolato sociale. Questo Sant'Antonio Maria Zaccaria non ho mai capito perché è sparito dallo schermo della fede popolare, e invece secondo me è un santo molto importante. Comunque auguri anche a chi si chiama Agatone, a chi si chiama Filomena e Marta. Quindi sono Filomena e Marta sono dei nomi abbastanza popolari, in realtà sono rimasti vivi. Saluto la nostra collega Filomena Greco, grandissima. Esattamente, e conosco diverse Marte io. E nel 1946, oggi a Parigi, una data storica, perché inventano il bikini, ecco, e questo secondo me è una delle invenzioni sante dell'umanità, devo dire la verità, insieme al fatto che nel 1950 la Knesset, il Parlamento del paese che insieme agli Stati Uniti mi è più caro al mondo, cioè il Parlamento di Israele, vota la legge, la cosiddetta legge del ritorno, che apre a tutti gli ebrei in tutto il mondo, qualunque sia la loro condizione, eccetera, il diritto di fare aliyah e diventare cittadini di Israele. Nel 2007 rinasce la 500. Siccome ieri mi hanno rotto i timpani dovunque, tutto il giorno, con questa storia della 500 di 60 anni fa, e io sono, ammetto, colpa mia, senza parole, Alessandro, cioè rimpiangere col catorcio. Ma no, come si fa? Ma come si catorcio? Fa? Catorcio? Ma il macinino bello che... Ma non è che se vai a Berlino Est sono lì a rimpiangere la Trabant. No, capito? Invece noi sì, perché questo radical chicchismo di considerare la 500 superiore perché anticonsumismo. Ma no, superiore, però così, quella linea tonda, quella linea bella. Vabbè, comunque, invece piccolina. 10 anni fa nasceva la nuova 500, che è stata la rinascita della Fiat, che poi è una superfettazione come la nuova Mini della BMW e così via. Però la vecchia 500, per carità di Dio, rispetto per quell'Italia che non si poteva permettere di più. Comunque, rispetto. Ma rimpianto, no, rimpianto. Diamo il numero 800240024. Sai che dobbiamo parlare di migranti, di immigrazione, di Donnarumma. Di Donnarumma? Di oro, e non è Donnarumma il caso. E come no, è lui. Dice autocertificazioni, avremo il deputato di che questa bella legge pro assenteisti e pro medici pro assenteisti. Un vero esempio della politica italiana, ne parleremo. Però intanto tranquillizziamo, tu sei lì a Roma, io qua a Milano, sono un po' più vicino al Brennero, assicuro che non ci sono carri armati schierati. No, mia. Non ci sono Panzer Division pronte ad occuparci, eccetera. Forse arriva un missile dalla Corea, ma insomma per il momento niente dall'Austria. Ma il senso un po' dell'impazzimento di questo tema dell'immigrazione, adesso tutti i giornali oggi c'è il problema dell'Austria, che non è un problema in questo momento. Mi pare, però. Anche perché di lì non passava più nessuno. Non passa più nessuno. Mentre a 20 miglia con Macron c'è qualche problema secondo me un po' più serio dal punto di vista di come regolare i flussi. Però insomma, la mia impressione è che la Commissione Europea ha preso molto sul serio le proposte italiane. Come tutti sanno e scrivono oggi, la questione è il Consiglio invece europeo che non farà altrettanto. Però E infatti ci aiuterà a capire cosa succederà a Tallinn Paolo Quercia, che torna con noi. Buongiorno e ben ritrovato Quercia, grazie di essere con noi. Buongiorno a voi. Così come ci aiuta a capire il sentimento che hanno in questo momento le ONG, abbiamo il presidente dei Medici Senza Frontiere d'Italia, Loris De Filippi, che è con noi. Buongiorno, lo ringraziamo. Buongiorno, grazie di essere con noi De Filippi. Perché una serie di interviste ieri ha fatto capire che MSF, ma non solo MSF, insomma, non volete passare per il vaso di coccio in questa situazione. Voi dite è l'Europa che deve risolvere, basta puntare il dito contro le ONG che salvano vite umane. Però sa che molte persone hanno anche dei dubbi sul ruolo che voi e non solo voi avete nel Mediterraneo. Sì, purtroppo non capiamo per quale motivo, perché credo sia l'unica azione umanitaria che noi facciamo al mondo così monitorata e così chiara. Noi volentieri non lavoreremmo su questo fronte se l'Europa avesse istituito, quando lo chiedevamo noi, quindi alla fine dell'esperienza di Mare Nostrum, un servizio europeo di ricerca e soccorso in mare, che non è mai stato messo in moto, e la Guardia Costiera Italiana e per un 30%, 25% le ONG in questi anni hanno vicariato un'assenza clamorosa dell'Europa, che secondo noi è patente, evidente, è sotto gli occhi di tutti. Questa la si vede anche in questi giorni, si vede anche nell'Europarlamento vuoto, Juncker che accusa. Esatto, e credo che Tallinn sarà una nuova delusione, no? Per quelli che in qualche maniera dell'Europa riescono a capire, ad accogliere il dramma, secondo me, del governo italiano a non riuscire a gestire la situazione, a Tallinn non avranno nessuna risposta. E credo che questo sia l'elemento più triste, più duro, e quindi continuerà a esserci un'estate ancora così tesa come quella dell'anno scorso, con l'insofferenza forse giustificata di moltissimi italiani che si vedono aggrediti in qualche modo, anche se numericamente non si può parlare di crisi assoluta. Ieri ricordavo brevissimamente che nel 2016 960.000 persone sono arrivate in Uganda, no? Dei rifugiati sudanesi, sì. Mentre in Europa e soprattutto in Italia sono arrivati 170.000. Però, e parliamo di cifre di molto molto di Oscar diverse. De Filippi ci dice siamo nell'operazione più controllata, eppure insomma, Oscar, ti ricordi che abbiamo parlato anche dei dubbi, la procura di Catania con tutte le polemiche, insomma, ci dice che sono controllatissimi invece De no Filippi. Voglio dire, sono molto controllate nel senso che sono parametrate, c'è la possibilità di sapere esattamente dove sei in qualsiasi momento con le imbarcazioni. Ci sono state delle polemiche sui transponder che venivano chiusi e cose di questo tipo, ci sono state probabilmente delle entrate nelle acque libiche, generalmente sono autorizzate sia dalla Guardia Costiera Libica che dalla Guardia Costiera Italiana, che sovraintende alla stragrande maggioranza di tutti gli sbarchi. Queste sono inezie comunque, e lo dimostrerà il fatto che anche se dovessero limitare l'azione dell'ONG non cambierà nulla. Questo va detto molto chiaramente ai radioascoltatori, sì, che si aspettano che le ONG vengano stoppate e finisca il flusso. Questa è un'aberrazione, cioè solo il 25% dei soccorsi e delle ricerche in mare sono fatte dalle ONG. Prima le facevano le barche commerciali, le navi commerciali, quindi non cambierà nulla. Non cambierà nulla. No, e soprattutto fumo negli occhi. Si vuole dare agli italiani, a degli elettori esasperati l'idea che stoppando l'ONG si fermerà il flusso. Questo non esiste. Non esiste. Oscar, tu... Non lo so, a me sembra di assistere a partiti contrapposti. Il punto posto dall'Italia alla Commissione Europea, virgola, raccolto dalla Commissione Europea con una serie di documenti di ieri, relativo all'ONG, è un punto che non deriva dall'operato dell'ONG, viene prima, ed è quello di ripristinare il fatto che il porto salvo per chi viene ricercato e salvato nel Mediterraneo non sia per definizione solo quello italiano, e la Commissione dice su questo l'Italia ha ragione, bisognerà nel più rapido volgere di tempo possibile con Tunisia, Algeria, Egitto, eccetera. Primo. Secondo, avrà visto che anche nel dispositivo della Commissione, poi probabilmente vediamo se cosa ne resta al Consiglio di Tallinn, si dice c'è bisogno di un coordinamento più efficace in mare, e nel coordinamento più efficace in mare si citano le ONG insieme alle due missioni europee che operano. Quindi se c'è bisogno di un coordinamento più efficace, l'ha chiesto l'Italia, lo dice la Commissione Europea, qualche problema ci sarà. Il problema non è quello di dire le ONG determinano loro il flusso. Il problema dell'Italia in questo momento è: siamo l'unico corridoio aperto per metà dell'Africa, i noti problemi, per entrare in Europa, e questo non si può reggere con le strutture italiane. È colpa nostra, per 20 anni non ci siamo dati un sistema efficiente, eccetera, però il problema è questo, non è il problema di dire ci dividiamo tra i buoni, i cattivi, voi siete cattivi e così via. Più c'è la contrapposizione, più sfugge sia all'opinione pubblica che ai paesi europei, che non muoiono dalla voglia di darci una mano, che la questione è questa, e che è una questione fondatissima dal punto di vista del diritto internazionale, oltre che politicamente fondata per il fatto che sono stati chiusi gli altri corridoi, perché quello balcanico è blindato per l'accordo con la Turchia, e se restiamo solo con un corridoio, il nostro, non è questione di volersi sottrarre a un dovere umanitario, non è questione di essere indifferenti alle morti, che sono tragiche, hanno toccato delle vette incredibili e continuano, ma è una questione di riequilibrio dal punto di vista internazionale, proprio perché il fenomeno è quello da voi sempre descritto, perché lo conoscete benissimo, perché lo avete affrontato, e Dio ve ne renda merito, in tutto il mondo dove si è manifestato. Però noi non possiamo essere gli unici antemurali. Ecco, tutto qui, io mi limito a dire questo, perché altrimenti anche quando sento espressioni come quelle che lei ha usato, vogliono... Io non so chi vuole, Minniti vuole quello che lei ha detto, non credo, Minniti dice semplicemente io a 12.000 arrivi in 36 ore, se questo è il ritmo so che mi crolla il sistema italiano dell'accoglienza, che fa schifo, non è un granché, ma purtroppo non posso riformarlo in 48 ore, tutto lì, ecco. No, il problema, guardi, è molto semplice, noi siamo sempre stati molto ligi al dovere, rispettando veramente la guardia costiera in maniera puntuale, nel senso che ci rendiamo conto che questa situazione è una situazione che l'Europa non riesce a gestire, o forse non vuole gestire, perché ecco, se un sistema di ricerca e soccorso in mare fosse messo in campo da loro, cioè dall'Unione Europea, dai 28 Stati membri, e soprattutto se ci fosse stata una ridiscussione di Dublino in questi 2 anni e mezzo, seria, cosa che non è mai avvenuta, sicuramente non ci sarebbero i problemi di oggi, appunto, in cui l'Italia non riesce a raccogliere. Infatti, come vede, che il problema sia europeo è chiaro. Ma infatti, un attimo, volevo sentire Quercia su questo, perché lei ha detto che a Tallinn non succederanno che chiacchiere. L'Europa non riesce o non vuole gestire questa cosa. A Tallinn, Quercia, che succederà domani e dopodomani? Ma io credo che si discuterà di quanto già più o meno concordato ieri dalla Commissione. Il documento della Commissione è abbastanza complesso, perché ovviamente parla del codice di condotta per le NGO, a cui viene assegnato all'Italia un ruolo nella stesura, però vengono anche fatte tutta una serie di altre considerazioni, anche di obblighi a carico dell'Italia, anche di possibilità di mantenere in territorio africano i centri di accoglienza, quindi è un documento molto complesso che comprende più politiche, ci sono le politiche di respingimento, ci sono le politiche di accoglienza, ed è contraddittorio tra se stesso, perché una delle accuse a cui è sottoposta l'Italia da questo documento è per esempio di non fare sufficienti espulsioni, Allora, cioè, io credo che questi documenti spesso sono il raccordo di pulsioni o azioni politiche diverse, ma non rappresentano affatto una strategia coerente. Fa bene Quercia, secondo lei, De Filippi, ma comunque rappresentante di MSF e comunque le ONG a protestare dicendo si sta facendo passare l'immagine che siamo noi in qualche modo i vettori, gli scafisti quasi, i tassisti, si sono date delle espressioni anche brutali nei confronti delle ONG. Allora, intanto distinguiamo, in primo luogo penso che non dovrebbero essere così scontenti di questo accordo che si sta raggiungendo del codice di condotta, perché viene formalizzata una cooperazione che loro hanno già in corso con la Guardia Costiera, e su questo penso entrare in un sistema più strutturato penso che sia nei loro interessi. Gli obblighi che vengono posti sull'ONG secondo me sono anche blandi, non sono così dannosi, ecco, per il loro lavoro, per il loro core business. Certo, si chiede di non entrare nelle acque libiche, penso che sia legittimo non farlo, ma perché non si deve entrare nelle acque libiche? Secondo me si può entrare, ma se entri nelle acque libiche poi si deve allora collaborare con la Guardia Costiera libica nel dare i migranti all'autorità competente per quel territorio. Quindi ci sono anche dei problemi di diritto, di sovranità, di responsabilità che non possono tutti cadere sull'Italia, quindi quello che cade sull'Italia deve avere dei limiti e l'Europa ce lo sta ricordando in tutti i modi, quindi bisogna cercare un difficile equilibrio. Voi avete ricordato dei dati, è stato detto che non è un'emergenza, però io ho fatto un po' delle serie storiche su questi dati. Dal 91 al 2011 sono circa 100.000 le persone sbarcate in Italia illegalmente sulla rotta centrale del Mediterraneo. 100.000 in 20 anni, dal 2011 al 2016 diventano 500.000. Già. Questo è qualcosa che non si può prescindere, quindi anche le categorie del salvataggio in mare vanno contestualizzate. Purtroppo l'abbiamo spiegato varie volte, anche a livello geopolitico, il crollo della Libia, di Gheddafi, insomma, ci sono state situazioni che hanno portato sempre più persone a spostarsi. A me viene in mente un bel libro di Sergio Ricossa che si chiamava I pericoli della solidarietà, che non so chi ha letto. Guardi che legge Sergio Ricossa, siamo 1, 2, 3, 4, 5 gatti in Italia però. Però io consiglierei di rileggere questo libro. Sono d'accordo, sono d'accordo. Il lavoro d'accordo che le ONG stanno facendo in un contesto anche più ampio, insomma. De Filippi, voi temete qualcosa? È vero che c'è un sondaggio, raccontava ieri Repubblica, Ipsos, che fa percepire agli italiani un valore delle ONG molto crollato per quello che è successo nell'ultimo anno nel Mediterraneo? Ah, sicuramente io credo che rispettando pienamente, lo dico con chiarezza, le indagini delle varie procure, perché sono giustificatissime ed è giusto che le ONG escano pulite e siano trasparenti comunque nelle loro attività, la speculazione politica è stata fatta vergognosa da parte di tutti in questo periodo ha colpito sicuramente la percezione di un'organizzazione come la nostra o come tante altre, e purtroppo ha toccato, secondo me, al di là delle ONG, il concetto stesso di solidarietà, nel senso che la critica feroce alle ONG fatta non ha tenuto conto del fatto che le ONG sono una colonna portante per questo paese, e spesso il fatto che ci sia una certa ignoranza sul tema ha fatto sì che la solidarietà sia stata colpita in pieno, non solo per chi faceva servizio di soccorso in mare, ma un po' in generale. E questo lo trovo gravissimo. A noi in questo momento ci dicono: ma perché non andate a lavorare in Africa? Perché non vi occupate degli africani piuttosto che lavorare qui, quando su circa un miliardo di volume globale di tutte le attività di Medici Senza Frontiere nel mondo, 5 milioni sono destinate alla ricerca e soccorso in mare, tutto il resto, soprattutto nell'Africa subsahariana e comunque in paesi come quelli del Medio Oriente, che stanno vivendo una situazione di conflitto incredibile. E in questo momento io credo che tutti siano molto focalizzati appunto sull'aspetto, come dire, italiano, quello sì, che si riguarda maggiormente, non rendendosi conto che il problema viene da molto lontano. Come dicevo prima, se in Uganda in un anno, ritornando ai numeri, sono arrivate 1 milione di persone, 960.000 persone nel 2016, e che sono stipate in 4 campi profughi, in condizioni veramente difficilissime, questo dalle dimensioni del disastro, di una crisi di cui non si parla minimamente, di cui nessuno accenna, come quella sudanese in Uganda, ci rendiamo conto appunto della disproporzione delle cifre, assoluta. È vero che sono arrivate 100.000 persone in Italia. Sì, ma sono cifre, come dire, relative, esatto, rispetto ad altre... Sono relative se fossero divise in un continente di 550 milioni. Il problema è che restano qui e in Grecia. Allora, caro Oscar, noi dobbiamo andare un attimo in pubblicità. Posso dire un'ultima cosa secca? Più ripetiamo questa storia che le cifre italiane sono risibili al mondo, se la ripetiamo così, impancandoci a maestri etici, la gente che ci ascolta dice andate a quel paese. Cioè, io non credo a questa pedagogia di superiorità etica. I fatti sono esattamente quelli, e anche a me fa orrore la nostra indifferenza per parte del mondo in cui si muore come a mosche. Però la mia esperienza di osservatore decennale della tensione italiana per chi ha meno e non sopporta in queste condizioni, non condivide dare di più a chi arriva da fuori, io non la condivido, ma so che è un fenomeno che non si tratta impancandosi a maestri etici, perché la risposta è a quel paese. Allora, io non credo che bisogna fare così, è un'opinione mia, non sto giudicando nessuno. Purtroppo la politica molto ha usato la contrapposizione etica e così si alimentano solo le tensioni, perché ci si soffia sopra a impancarsi a maestri etici. Chiusa la mia finestra. Allora, dobbiamo andare un attimo in pubblicità nel ringraziare Loris De Filippi, presidente di Medici Senza Frontiere Italia, e Paolo Quercia. Vedremo che succede a Tallinn. Andiamo un attimo in pubblicità, poi parleremo, vabbè, anche di Donnarumma. Sì, cioè, che poi non è parlare di calcio, Oscar, ormai questa cosa ha travalicato il senso del calcio. No, infatti è costume, psicologia pubblica, privata, sì, non c'è dubbio, è molto anche, oltre. È anche disco dance, Ibiza, cioè, disco dance, la scuola, istruzione. È una gioventù di successo, perché poi l'uomo è di successo a essere costruito con le sue mani sui piedi, con la sua dedizione, questo non si discute. Tra poco 24 mattino, attenti a noi due. Allora, le 8:48 minuti, caro Oscar, c'è un ascoltatore prima di parlare di Donnarumma, Sì. C'è Gianfranco da Roma, buongiorno Gianfranco. Buongiorno a voi. Dunque io chiamo per la prima volta e penso di dire le stesse cose che ho detto, ho pensato altre volte, però senza chiamarvi. Dunque, l'Europa ancora ci siamo accorti che ci prende per il culo, scusi il termine, cioè noi non sappiamo poter dire quello che vogliamo fare, perché oltretutto c'è una popolazione, un popolo che non ha più le palle, va a vedere i concerti, compra il telefonino, la macchina a 120 euro al mese, e chi se ne frega? Invece no, il popolo italiano, se vuol cambiare rotta, deve mettersi in testa di andare a votare tutti insieme, scegliendo quello che potevi scegliere, che si può scegliere, ma che butti a mare questa razza di politici che sono stati nominati dall'Europa apposta per fare i porci comodi loro politici nominati e dell'Europa. Insomma, questo tutti via. Oscar, questo è uno sfogo che, insomma, sempre più diffuso, ecco. Poi dopo si parla di populismo, che dire, via tutti è un po' via tutti, e poi chi ci mettiamo? Io e te, Oscar? Io lo so che è una causa persa spiegare che sono tutti errori che abbiamo commesso noi. Invece la semplificazione per cui ci sarebbe il tiranno uno che ci ha imposto tutto, poi alla fine passa, è una semplificazione, non è così, è autoassolutoria. Però lo sappiamo che dobbiamo, il nostro compito è non dimenticare che abbiamo chi ci ascolta o chi ci legge, eccetera, tanti, e un numero crescente che la pensa così, perché all'opera ci sono coloro che poi pensano al consenso, fanno il loro mestiere, è così. Non basta dire non capite niente, le cose non stanno come le dite voi, perché è sbagliato anche quello, bisogna essere molto pazienti. Ma non lo devo dire a te, perché lo sai meglio di me. Senti Oscar, allora qui c'è un 18enne, Gigio Donnarumma, che firmerà probabilmente per 6 milioni l'anno per 5 anni, fanno 30 milioni. Poi ha anche imposto con il manager Raiola che venisse il fratello. Tu sai che faccia ha il fratello a giocare al Milan, portiere anche lui? No, io 1 milione l'anno il fratello. Però dice che a Genoa lo apprezzavano. Ah, vabbè, comunque, ha imposto il fratello. Poi ha chiesto di spostare il diploma di maturità perché c'era gli europei, gliel'hanno spostato, e ieri doveva fare il diploma e invece ha preferito prendere un aereo privato e andare a Ibiza. Posso dire, io vorrei solo dirti che qui da Roma c'è un commento che sa. cos'è? Questo, il commento di Roma è questo qua. Ma digli a Valerio. Ecco, no, vabbè, vive ancora per 30 anni a pensare a Totti, no, è finito, senso, basta. Sì, però sono riusciti a disciplinare persino quel caso psicologico. Perfino Totti. Allora, oggi nel Buongiorno sulla Stampa, consueto, Mattia Feltri che è con noi, buongiorno. Ciao Mattia, racconti di, i conti del ragioniere, che non è in questo caso Fantozzi, ma sono proprio... No. Buongiorno a voi innanzitutto. No, avete riassunto molto bene. Volevo dire al caro amico Oscar che il Donnarumma fratello, quello grande, che sta per compiere 27 anni, effettivamente era apprezzato al Genoa, tant'è vero che in due stagioni aveva giocato una partita. Vabbè, perché... magari in Coppa Italia vabbè, però adesso io forse non sento più. No, ci sentiamo, noi ti sentiamo bene Mattia, e io però non sento voi . E quindi non vabbè. Allora, vi sento. Cosa scandalizza di più? Il mancato diploma, il fratello imbucato nell'accordo, i 6 milioni, Ibiza invece? Che cosa scandalizza di più? O niente, magari scandalizza. Niente, no, niente. Alla domanda niente, la risposta è stata niente. Molto a te, la Oscar, cosa del gestore. Cosa, cioè, c'è io devo dire la verità, io non condivido il giudizio generale verso Raiola, perché Raiola a far ballare così i club di questo singolare mondo non esattamente per educande che è il calcio dei grandi club, a me pare un genio nella sua sregolatezza. B, il problema sono i calciatori, perché si rivela, e non mi stupisce, che il giovane però intorno a sé non ha una famiglia, dei consigli, degli amici capaci di evitargli prima del zig zag nella trattativa, compromettendo il suo rapporto con un club e con i suoi tifosi, che dovrebbe tenersi stretto a quell'età, B, anche con evidenti e coerenti a questo zigzagare di incertezza, di indecisione, di immaturità, ma non solo sua, lui è giovane, ma di chi gli sta intorno, che si condensa poi nel prendere il volo privato piuttosto di maturità. Sì. È ovvio che lui non camperà col titolo di studio, però come verso la disciplina del club è ovvio che lui è venuto meno, si è rotta una roba psicologica col club e coi tifosi, dai, è ovvio per questa maniera di far porre il problema. Così allo stesso modo un mattone viene meno di quello che è la sua saldezza psicologica, e a me dispiace per lui, devo dire la verità. Vediamo, vedremo al primo errore. Mattia, intanto l'abbiamo recuperato. Mattia, la domanda era se c'è qualcosa di tutte le vicende Donnarumma e delle varie pieghe che ti scandalizza più delle altre. No, a me non, guarda, non mi scandalizzo più niente, perché scandalizzarsi deve essere una cosa che può succedere una volta ogni tanto. Se ti scandalizza poi tutti i giorni diventa un esercizio noioso e anche spocchioso. A me quello che dispiace di più è davvero che di fronte al denaro, che è una cosa importantissima e centrale delle nostre vite, e quel contratto è sacrosanto, poi si perde di vista sempre un po' tutto il resto. Io mi ricordo tanti anni fa, lavoravo al Foglio, avevo cominciato a fare delle cose un pochino apprezzate qua e là, tant'è che Panorama mi offrì un contratto più alto rispetto a quello del Foglio, che io, che non sono un eroe, rifiutai perché mi sembrava di avere un dovere verso il giornale che mi stava lanciando, e mi sono fermato ancora qualche anno al Foglio. Non è un atto di eroismo, è un atto, credo, di responsabilità verso chi sta lavorando con te, su di te, e tutte queste cose qui ogni tanto si perdono per questo raiolismo, no? Questo raiolo, questo manager bravissimo, che però tutto si ferma lì, non c'è mai un ragionamento in più, un passo in più. Quindi è tutto l'insieme che Fa il manager, ma a te dispiace anche un po' per questo povero preside di Vigevano che attendeva ieri per il diploma? Ma insomma c'è una comprensione di fronte ai giocatori che è anche giusta, ripeto, poi le partite ce le guardiamo tutti, eravamo contenti di avere un bravo portiere anche se poi l'europeo è andato così, e quindi insomma l'esame gliel'hanno rinviato, è successo anche ad altri, non era l'unico, stamattina lo aspettavano e ieri hanno saputo che è andato a Ibiza. Non ci fai bella figura, fai la figura della persona un po' irresponsabile. Ha ragione Oscar, non è un titolo di ragioniere che potrà modificare di un millimetro la vita di Donnarumma, però forse avrebbe cambiato la percezione di Donnarumma, e la percezione che Donnarumma avrebbe avuto di sé tra qualche giorno una volta conseguita la maturità. Mi sa, Oscar, per concludere, che al primo mini errore verrà un attimino sanzionato dai tifosi del Milan. Ma io sentivo, prima dicevate anche una cosa molto giusta, è anche quello che gli sta attorno. Io ho fatto anche dei casini sui social quest'estate, insomma. State un po' più contenuti, siete tanto bravi a consigliargli i contratti, in che squadra andare, e va benissimo, ripeto, non figuriamoci. Consigliategli anche qualche cosa che gli serva per crescere, normalmente per crescere. Applaudo a Mattia, ogni parola. Anche un po' di prudenza, insomma, in fondo a 18 anni, Comunque, grazie Mattia Feltri. A 18 anni, un po' di decenni fa, si partiva per la Russia. Questa cosa per cui altrimenti è 18 anni. Sì, a 18 anni, però è da 2 anni in Serie A. Questo è vero. E invece il fratello? Da un po' di anni. Non gioca nel Genoa. State con noi, andiamo avanti fino alle 9.30 dopo il giornale radio. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. 24 mattino. Attenti a noi due. Sono le 9 e 5 minuti, caro Oscar, eccoci qui, andiamo in onda fino alle 9.30. Eccoci tornati qui, allora. Ci sono sotto, sono tutti i tifosi di Totti che dicono ma non è vero, il caso di Donnarumma, non è vero. Sono i tifosi di Totti, Donnarumma almeno si guarda al futuro del calcio, Totti adesso no. Bisogna vedere, augurare a Gigio di durare a lungo con altrettanto sostegno intorno a questo. Va bene, sentiamo Ettore da Milano che ci chiama, buongiorno. Tom? Sì, Ettore. Buongiorno, senta, io lo volevo mettere un attimo su questo piano qua, io premesso che sono sportivo, ho giocato anch'io, sono milanista, tutto quello che vogliamo, però questa dimostrazione di ricchezza, dare tutti questi soldi a un ragazzo di 18 anni, aereo privato, eccetera. Poi pretendiamo che questi ragazzi che vengono, immigrati, magari stanno a tirare due calci ad un pallone, è chiaro che si illudono. Questo paese è ricco, danno soldi a falate, non c'è bisogno di diplomarsi, non c'è bisogno di niente, basta saper tirare due calci e sei straricco. Ma scusate, ma secondo voi è una dimostrazione sana questa? Sana, io Oscar, sulla questione, quando si tocca la questione soldi, non so cosa c'entrano gli immigrati in questa cosa, ma si è riusciti a tirarli dentro. No, perché sai, aspetta Ettore, sai che uno dei motivi per cui all'inizio degli anni 90, quando non venivano dall'Africa, venivano dall'Albania, eccetera, erano due i grandi driver che avevano convinto gli albanesi, giustamente, Mediaset, dalla condizione la televisione, la TV di intrattenimento, sia della Rai che Mediaset, e il calcio, perché infatti abbiamo avuto una leva di aspiranti calciatori albanesi e così via, perché popolarmente allora arrivava quello. Quindi non è più in Italia, non sbaglia troppo. Sì, ma non è più in Italia così, cioè uno può andare anche in Germania. Nel frattempo il calcio italiano è decaduto di molto rispetto ai tempi in cui una certa squadra di Milano con un'altra vinceva coppa con una certa, è cambiato. Si deve far vedere forse dal Real Madrid, dal Manchester United, proprio cambiato. Deve puntare a questo. Comunque Ettore dice non sono valori, ecco, no? Che valori si danno se si dice a un 18enne? Valori di mercato. Valori di mercato. Siamo sempre lì, in questo Alessandro Milan ripete sempre una cosa che non svelo, perché così dice, sai, criticare sono tanti soldi, sì, ma il valore lo fa l'accordo, nel senso che se c'è qualcuno che ti paga per quello vuol dire che quello vale, ed è così. Ma esatto, è un accordo tra, non è che ha fatto una rapina in banca, è un accordo tra persone, uno offre tanto e quello dice che devo fare, e mi piace allora questa cifra, e me la prendo. Marco da Mantova, buongiorno Marco. Sì, ciao, buongiorno ragazzi. Io volevo dire, rispondendo prima al giornalista che ha telefonato, che non ci sono più gli imprenditori di una volta, i datori di lavoro di una volta, che ti fanno crescere e poi non ti buttano nella spazzatura come invece fanno adesso, dopo pochissimo tempo. Per quello che riguarda invece Donnarumma, i tifosi si meritano questo ed altro, si meritano dei Raiola che spremono le squadre come dei limoni, perché loro alla prima occasione del calciatore che sbaglia, che fa una papera o qualsiasi cosa, lo crocefiggono. Negli ultimi 15-20 giorni a Donnarumma i tifosi del Milan gli hanno detto qualsiasi cosa. Sì. Io non sono tifoso di calcio, però gliene hanno dette di tutte. Cioè, meritano questo ed altro. Ma caro Oscar, Marco vede una società in cui gli imprenditori cosa fanno? Buttano nella spazzatura i lavoratori appena. E poi le società devono essere, come dire, spremute, perché anche loro trattano come materiale di scarto i giocatori. Non so, una visione un e po' contemporaneamente i tifosi non meritano niente. Non lo so, beh, però rispettiamolo prima di tutti. Perché io non sono molto d'accordo, io non ho visione, non ho questa visione degli imprenditori italiani. Cioè, l'altro ieri un imprenditore 84enne che è scomparso e che ha portato la sua azienda sempre a crescere fino alle braccia poi di Terna pubblica, scompare e però lascia a ciascuno dei suoi dipendenti alcuni milioni di euro, dandone di più 15.000 agli operai che 10.000 a testa agli impiegati. E con gli imprenditori italiani sono anche questo, e più piccoli sono più la scelta rispetto a quanto pesa sul bilancio piccolo della società di ogni dipendente li renda molto attenti a quello che capita intorno. Piccolo imprenditore intanto è come dire, è lavoratore della sua stessa impresa, esatto. È a fianco il lavoratore, mica detto è questo, lì a vessarlo, a buttarlo. Che nel calcio girino soldi in una maniera vorticosa A, B, e che abbiamo un calcio opaco italiano, perché altri sistemi si sono messi in regola su questo, il calcio tedesco, quello britannico, quello spagnolo sono cresciuti nei competizioni internazionali perché hanno dato una svolta alla gestione finanziaria e alla trasparenza delle proprie, dei propri grandi club. Noi no, purtroppo, e infatti paghiamo. Però voglio dire, quelle sono le cifre, altrove sono cifre anche molto più considerevoli che da noi. Rispondo solo a uno su WhatsApp che dice: dov'è l'intervista a Piero Angela sul Corriere della Sera? Corriere secondo della me è straordinaria. Sì, sono d'accordo con te. Che parla l'ho di merito, di tecnologia. Alle 7 stamattina. Sviluppo, e soprattutto posso dire, amici del Foglio, forse glielo dovevate chiedere prima di candidarlo senatore a vita invece di mediare questa figuretta. Però se questo è stato il pretesto per avere una bella intervista a Piero Angela, perché poi il pretesto nasce da lì, lui che rifiuta la proposta del Foglio di fare senatore. Ma devo dire però con... dice delle cose straordinarie. Poi sul dice delle cose straordinarie perché l'uomo è straordinario. E quando dice la politica non fa per me, lì non c'è un solo progetto che va avanti, chi potrebbe dire che non ha ragione? Esatto, perché è proprio lui parla così. Di cultura, sviluppo, tecnologia, merito, la scuola che dovrebbe migliorare la qualità dell'insegnamento, cose visionarie in Italia, sì, visionarie, certo, visionarie. Devo dire che stamattina però mi ha imposto una cosa, la rasoiata di Ferruccio De Bortoli sulla chiesa e l'accoglienza. A un certo punto Ferruccio, 4-4, tomo, come fa lui, il gattone sempre gentilissimo, educatissimo, un lord inglese, dice a un certo punto, forse anche la chiesa, forse prima o poi, dovrebbe forse porsi il problema dei limiti dell'accoglienza. C'è una maniera molto gesuitica con cui tira una rasoiata, solo per dire che non è che la chiesa uno deve dire basta, non ne vogliamo più nessuno, però stare anche attenti a non prestarsi al gioco delle parti di dire che non c'è limite, è solo in Italia, perché è solo in Italia la questione rispetto al resto d'Europa, per tutti quelli che vengono dall'Africa. Ecco, Ferruccio De Bortoli riesce con grande delicatezza, gattoneggiando, a tirare un'artigliatina. Allora, caro Oscar, adesso dobbiamo parlare di questa proposta di legge del deputato Maurizio Romani del gruppo Misto. Buongiorno onorevole Romani. Buongiorno a voi. Medico, questo lo diciamo perché, perché il disegno di legge interviene nel settore che lei conosce, anche bene. Se non sono un medico di base, quindi non ho molti conflitti di interessi. No, vabbè, però leggiamo sui giornali la proposta di legge, la possiamo sintetizzare così, proprio secca, poi è più elaborata. Il cittadino potrà autoassegnarsi fino a 3 giorni di malattia comunicandoli al medico che a sua volta dà notizia all'INPS, e poi i certificati vengono depenalizzati. Ma è quella prima cosa, cioè Oscar Giannino prima ha detto ma questo aprirebbe a un assenteismo di massa. Ma lei si immagina gli italiani che si possono autoassegnare fino a 3 giorni di malattia senza che nessuno dica nulla? No, il principio è proprio l'opposto, visto dall'esperienza di medico, se mi permette. Allora, innanzitutto il disegno di legge mira soprattutto a semplificare la normativa vigente in materia di certificazione, sia del dipendente pubblico sia di quello privato. Bene. E mira soprattutto a depenalizzare una cosa, perché in realtà questa è una modifica a un decreto legislativo del 2001 e modifica soprattutto due articoli. Perché? Perché che riguardano soprattutto le false attestazioni del lavoratore e del medico nei casi di assenza da malattia. Perché che cosa avviene? La certificazione medica deve essere innanzitutto inviata dal medico all'INPS e deve essere inoltrata attestando i dati clinici che sono stati direttamente constatati dal medico e oggettivamente dimostrati. E su questo non c'è dubbio, siamo tutti d'accordo. Sì. Però che cosa succede? Molte volte noi ci troviamo di fronte a delle patologie che sono obiettivamente difficili da dimostrare. Tipo mal di testa, mal di schiena, vertigini. Ho vomitato tutta la notte, sono rimasto bloccato, mi sono prese le vertigini. Ok, il medico. Allora, partiamo anche dal presupposto che ci deve essere un rapporto di fiducia tra medico e paziente. Sì. Sia la fiducia del paziente verso il proprio medico, ma anche il medico che conosce da tanto tempo il paziente deve avere una certa fiducia che non faccia il furbo. Bene? Ora, è chiaro che se questo avviene tutte le settimane, accannisci un effesso, si dice in Italia. Bene, però una volta che ammettiamo che questo paziente fa una certificazione, poi chiede un certificato dal medico, poi va fuori e succede che c'è un incidente, mette sotto un ciclista, finisce in una lista, quello che vogliamo. Che cosa succede? Succede che entriamo nel concetto della falsa certificazione, che punisce attualmente il medico. No, entrambi. Con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 400 a 1.000. Però onorevole Romani, perché noi purtroppo la radio ha bisogno di sintesi, no, cioè, ci dica perché la proposta di fare questa autocertificazione. Allora, la prima cosa è questa, che leva la parte penale al medico, d'accordo? E lascia però quello che è da parte dell'ordine dei medici, dall'azienda sanitaria, la possibilità di punire il medico, di licenziarlo, di aver fatto false certificazioni. E vabbè, sappiamo che funziona molto l'ordine quando si deve regolare così. Vabbè, ammettiamo che siamo in una nazione dove tutto dovrebbe funzionare. Io sono entrato in politica sperando che questo aiuti a far funzionare le cose, non a complicarle. Allora, detto questo, il meccanismo è che a questo punto il paziente si autocertifica malattia. Siamo arrivati al punto. Perfetto. E non è coperto dal suo medico. Sì. Cioè, lui non ha un certificato medico. Si autocertifica. Non so, Oscar, tu ti autocertificheresti? Io sono intransigentemente, duramente, esplicitamente e nel pieno rispetto per il firmatario, avverso, contrario a questa proposta di legge. E mi dispiace, nasce per reazione al fatto che negli ultimi 18 mesi il tasso di indagini penali aperte dalle procure nel nostro paese per assenteismo pubblico si è alzato a doppia cifra, e si è alzato a doppia cifra estendendo sempre di più la responsabilità dei medici attestanti, come ipotesi, il falso insieme a coloro che ne hanno beneficiato. Non credo affatto che la priorità in questo caso, per me che sono un garantista, sia la depenalizzazione, perché al contrario, decenni di esperienza, prima di arrenderci a questa norma, abbiamo per decenni assistito a tassi di assenteismo nel pubblico 4, 5, 6, 7, 8 volte superiori a quelli del privato. Allora, mi dispiace, e lo dico nel rispetto del firmatario, ma questa legge per tornare a dire ai medici dite solo sì e non ne risponderete è radicalmente da respingere. Quello che le viene attribuito, e che non so se sia vero, però l'ho letto sui giornali, ma sai, a volte poi il paziente ti devi fidare, dite no. Nessuno vi obbliga a dire sì a una telefonata che dice ho il mal di testa. Dite no, perché altrimenti, ripeto, l'autocertificazione, poiché siamo ancora in presenza di fenomeni che si ripetono e di tassi ancora più elevati, che vanno recuperati, i coloro che lavorano nel privato chiedono, credo che sia giusto, che il tasso di assentismo nel pubblico non sia 3, 4, 5 volte superiore. E non è una generalizzazione dei lavoratori pubblici, perché non stiamo parlando della generalità, però è una percentuale consentita da regole sbagliate. L'autocertificazione sarebbe un nuovo passo indietro, e l'argine per i medici, io non ce l'ho con i medici, non generalizzo, significa semplicemente fate come vi pare. Capisco che sono brutale, ma la sintesi della radio è questa. La questione è che poi uno, il medico che dice di no, poi giustamente dice vai fuori, fa succedere un casino, e il medico ci va di mezzo, e cioè è come la questione della medicina defensiva. Se è un jukebox il medico, tanto vale che ognuno si autocertifichi. Non funziona così, è quello che propone. Ma no, è un po' come la questione della medicina difensiva, cioè il medico dice mal di testa, subito certificato, così io mi scarico dalla responsabilità. Un po' Romani funziona così adesso, no? Sì, posso intervenire? Sì. Perché le spiego, non è stato questo il mio senso e non è fondamentalmente quello di difendere il medico che asseconda richieste sbagliate. Allora, innanzitutto questo disegno di legge io l'ho presentato nel 2015, è entrato in commissione ora, ma il grande tasso di assenteismo, l'abbiamo visto poi, non è dovuto alla certificazione di malattia, ma è dovuto in gran parte a quelli che timbrano il cartellino e vanno via, oppure dicano altre cose. Aspetti, ma io invece mi riferivo esattamente ai dati INPS comparati sulle malattie e patologie a sesmo per quello, quindi attento a non cambiare. Stiamo parlando dei furbetti del cartellino e non stiamo parlando dei tassi multipli anche lì con attestazioni compiacenti della legge 104, anche lì con i medici di mezzo, mi scusi. Perfetto, ora posso parlare anch'io. Allora, il meccanismo fondamentale è questo. Apprezzando il fatto che ci sia questa contestazione, e ne sono perfettamente cosciente, la cosa deve essere quella che tutti dobbiamo essere più responsabili. E partiamo da questo punto che è fondamentale. Allora, io faccio un certificato medico convinto che il paziente mi abbia detto una cosa giusta nella quale credo, e che non posso oggettivamente appurare in quel momento. Ammettiamo che sono completamente in buona fede e credo, io voglio pensare, e sono contrario totalmente alla medicina difensiva, tanto per essere chiari, e voglio pensare che il medico abbia fatto un gesto cosciente, che quel paziente è stato male. È chiaro che se fa un lavoro, che è un lavoro, non è che va a fare l'impiegato in comune, ma fa un lavoro oggettivamente dove esiste anche un rischio, è ovvio che non credere a quel paziente potrebbe sottoporlo a un rischio. Va bene. Per lui e per gli altri. Romani, tra 30 allora, secondi noi dobbiamo chiudere, glielo dico, dobbiamo passare allora, all'argomento. Quello che avviene spesso è questo, che un paziente coperto da un medico, da un certificato medico, si sente al sicuro. E anche quando viene il medico fiscale a visitarlo, sa che tanto non lo visita perché medico non va contro un altro medico, soprattutto che lo conosce da una vita, chi glielo fa fare? No? In questo caso invece il medico lo può controllare, può certificare che è una bufala e lo rimanda a lavorare. Quindi alla fine responsabilizzare il lavoratore non è mai sbagliato. Ma quello che vuol fare il furbo. Sì, però bisognerebbe mettere tutti i medici a controllare, uno fa la certificazione, domani la fanno 1 milione di italiani perché c'è l'autocertificazione, bisogna prendere 1 milione di ispettori dell'INPS che vanno, medici che vanno in tutte le case di 1 milione di italiani a controllare. No, infatti è impossibile, non si può immaginare un sistema orwelliano, però la depenalizzazione dell'attestazione è una reazione veramente agli indagati, questo mi colpisce molto e mi addolora molto. Il principio che ho proposto era questo: se c'è un'autocertificazione allora ci deve essere un medico che deve andare a controllare. Io per esempio ti dirò che mi sono sentito male di fronte alla mia reazione psicologica a caso di una ruma da tale che mi sono interrogato stamattina se venire a lavorare, però invece poi sull'oro, abbiamo parlato dell'oro di Donnarumma, ma sul Sole 24 Ore, sul cartaceo ma anche sul sito, si parla di altro oro da alcuni giorni. Ti piace questo collegamento? Non so se piace il dorado. se piace al nostro Angelo Mincuzzi. Buongiorno Angelo. Ciao. Buongiorno, ciao. Altro oro, altro che quello di Donnarumma. Tu e Roberto Galullo state facendo un'inchiesta a puntate molto interessante sull'oro, l'oro, proprio l'oro, anche gli oggetti, l'oro che abbiamo nelle case, l'oro. Dove finisce questo oro? e finisce in percorsi spesso poco chiari. Ah, le mogli di solito. No, non alle mogli, no. Dove finisce, Angelo? Finisce alla fine in Svizzera. In Svizzera, ecco. Finisce in Svizzera. Ma come? Finisce in Svizzera attraverso una serie di canali abbastanza strani, no? Poi viene messo nei doppi fondi delle auto. Noi in questa inchiesta facciamo anche vedere come sono modificate le auto attraverso dei video, dove vengono inseriti i lingotti d'oro. Infatti posso dire, intanto bravi per aver rinnovato, perché molti credono che siano cose di vecchi tempi, decenni fa, no. Dei film della commedia all'italiana, e invece... No, assolutamente, sono cose assolutamente, come dire, attuali, anzi attualissime. Vengono anche fermate famiglie dentro, all'interno delle macchine, poi ci sono nascosti i lingotti d'oro. Il lingotto d'oro ha un peso specifico molto elevato, quindi basta pochissimo spazio per trasportarne una quantità notevole. Noi con questa inchiesta abbiamo fatto un po' arrabbiare gli orafi di Arezzo. Di questo me ne dispiace, ma noi non abbiamo inteso criminalizzare nessuna categoria. Però è giusto scavare su e non far dimenticare questa importanza della storia che avete riraccontato e che Lambiva investiva anche una truffa che la Banca Retina rifilava alla Banca d'Italia, tra l'altro. Sì, ma poi c'è questa leggenda di Licio Gelli, è una leggenda per carità, no? Che parla di un carico di oro dalla Jugoslavia sparito, 27 tonnellate rimaste a Gelli, altre tonnellate invece che sarebbero andate al vecchio PC. Una leggenda, non ci sono prove di questo, però insomma abbiamo comunque voluto ricordarla nella nostra inchiesta prima di partire con le cose serie, cioè le inchieste della Guardia di Finanza che hanno coperchiato, per la verità lo fanno da anni, ma c'è un'inchiesta molto grande ad Arezzo che ha, diciamo, acceso un riflettore su questa realtà. Sì. Che poi l'oro, si sa, è il solito bene rifugio, ma è davvero ancora così? Cioè c'è questo attaccamento all'importanza dell'oro. L'oro è l'oro. L'oro attrae, l'oro è sicuramente il bene rifugio per eccellenza. Cioè, in tutte le case degli italiani, o in quasi tutte le case degli italiani, c'è un gioiello d'oro. Ma appunto, e noi siamo andati, allora, in Italia c'è un furto in abitazione ogni 2 minuti e gran parte della refurtiva è fatta di oro. Dove finisce questo oro? Noi abbiamo voluto ripercorrere il cammino che porta poi alla fine in Svizzera. Sempre Svizzera. Sì, fate Svizzera, perché l'oro viene al confine, in Svizzera, al confine con l'Italia, ci sono 3 grandi raffinerie di oro che raffinano anche questo oro illecito. Loro naturalmente non lo sanno, chiaramente sono ignare di tutto questo, ma perché basta presentare dei documenti che abbiano di accompagnamento, che abbiano una parvenza di legalità, quest'oro viene fuso e acquista una verginità. Sostanzialmente vengono fuori dei lingotti puliti, chiaro, freschi, bellissimi, e nessuno può dire qual è l'origine di quell'oro. Insomma, caro Oscar, capisci? No, ricordiamo... Poi c'è tutto un fenomeno, ricordiamo, che ha a che vedere anche con centinaia di migliaia di italiani che colpiti dalla crisi, e infatti in quegli anni hanno iniziato a rimoltiplicarsi i comprooro, no? Che nelle città italiane erano spariti. Attenzione, perché dietro moltissime indagini, come raccontano i nostri colleghi, hanno dovuto scoprire che c'erano pezzi interi di queste reti che ovviamente avevano a che vedere con il riciclaggio, che funziona come ha appena spiegato Mincuso, ma anche con reti criminali e così via. Insomma. Ricordiamo, sul sole24ore.com oggi c'è la terza puntata, ma è uscita puntata anche sul soprattutto giornale. Cari mariti, la lettura datela ai vostre mogli di fronte alle richieste, dice no, leggi l'inchiesta del Sole, vedi i rischi e i pericoli a cui ci espera. Bravissimi i nostri colleghi. Leggi Mincuzzi e Galullo e fai un giro in Svizzera magari in un cavò a vedere se c'è qualcosa. Grazie Angelo, ovviamente, per essere stato con noi. E qui, caro Oscar, ci dobbiamo fermare. Ma domani torni tra noi fisicamente? Domani, cioè dipende se qui i tifosi di Totti mi lasciano libero. Perché qui adesso, perché io adesso potrei dire qualcosa contro Totti, così poi te la vedi lì con Valeria. Tanti no, perché qua io qui, io naturalmente dico... Finché sto qui solo viva Totti, fuori di qua recupero la libertà. Poi qua dice viva Donnarumma, è così, insomma. Va bene. Ringraziamo tutti, a domani.